ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Quinta puntata. Sentivo gli occhi che non volevano stare aperti. Da qualche giorno non mi lavavo e avevo una crosta sul viso. Le mani, sporche di sangue e terra, odoravano di fumo e desideravo una mattina come le altre per poter lavarmi il viso e andare a dormire nella tana. Erano due notti e due giorni che non dormivo e ora non c'erano munizioni. Gli alpini erano stanchi, la posta non arrivava, il tenente non c'era. Avevo sonno, fame e restavano tante cose da fare. Ma avevo sigarette. Mandai un portaordini dal capitano a dire che avevo bisogno assoluto di munizioni per tutte le armi e bombe a mano, tante. Feci raccogliere le cartucce inesplose che saltavano via dai mitragliatori quando si inceppavano per spararle con i fucili. Gli alpini stanchi si buttavano sulla paglia delle tane e russavano con il fucile in mano e le bombe nelle tasche. Dormendo qualcuno saltava in piedi gridando e subito ripiombava giù a russare. Lasciai fuori solo tre vedette, ma non potevo dormire. Arrivarono le munizioni. Le portarono a spalle i conducenti e appena messe giù le casse si allontanarono in fretta. Stavo con una vedetta a guardare i cadaveri dei russi che erano rimasti sul fiume e osservando così nel sole del mattino mi accorsi di due russi che stavano nascosti poco lontano da noi dietro un rialzo del terreno sulla riva del fiume. Dopo un po' che li osservavo si mossero. Uno sorse in piedi e di corsa tentò di passare di là. Mirai, mi pareva di vederlo davanti alla canna del moschetto e tirai. Lo vidi cadere di schianto sulla neve. L'altro suo compagno, che si era alzato in piedi per seguirlo, tornò a nascondersi. Osservavo con un binocolo il russo caduto sul fiume. Lo vedevo immobile. Ma perché non aveva aspettato la notte per passare di là? Anche la vedetta osservava. D'un tratto esclamò: «Si muove!» E lo vidi scattare come un babau e correre verso l'altra riva. «Me l'ha fatta!» dissi forte e risi. Ma la vedetta prese il mitragliatore della postazione e mezzo rito sulla trincea sparò. Vidi il russo cadere nuovamente, ma non come prima. Si contorceva e si trascinò per qualche metro. Infine si fermò con un braccio teso verso la sponda ormai vicina. L'altro suo compagno, che era rimasto dalla nostra parte, ritentò il passaggio. Ma una raffica di mitragliatore lo costrinse a nascondersi nuovamente. Pensavo, aspetterà la notte ora, gli converrebbe. Avrei voluto gridarglielo. Vi era un bel sole, tutto era chiaro e trasparente, solo nel cuore degli uomini era buio. Buio come una notte di tempesta su un oceano di pece. Allora sentii un gran boato e tremare la terra sotto i piedi. La neve franava dalla trincea. Aratri di fuoco solcavano il cielo sopra di noi e una colonna alta di fumo saliva dall'altra riva e oscurava il sole. Vicino alla terra era gialla e più su nera. Negli occhi della vedetta vidi il mio terrore. Mi agitavo nello spazio di pochi metri dentro la trincea, ma la mia paura non sapeva dove andare né cosa fare. Mi guardavo attorno e non ero capace di ragionare. La vedetta era il mio specchio. Poi sentii e vidi gli scoppi levarsi dietro il caposaldo di cenci, tanti, uno vicino all'altro, e nel medesimo istante questa riuscì a pensare è la Cattiuscia a 72 colpi. Diavolo, che accidente d'ordigno! Sparò altre due volte e ogni volta trattenevo il fiato. Finalmente la nostra artiglieria incominciò a rispondere. Poi ritornò il silenzio. Aspettavo il nuovo ufficiale che sarebbe venuto a prendere il comando del caposaldo. Avrei voluto dormire un po', almeno un'ora. Intanto passava il tempo. Potevano essere le 9, mezzogiorno, le 2, non sapevo. Il 15 o il 16 o il 17 di gennaio. Udii la voce di uno che incitava parlando forte in russo. Capii qualche parola: patria, Russia, Stalin, lavoratori. Mandai subito una vedetta per le tane a far uscire gli uomini con tutte le armi. Uscivano in fretta, imprecando, con gli occhi pieni di sonno, socchiusi alla luce del sole. Odoravano di fumo. Dissi: non sparate se prima non vi do l'ordine, tenetevi pronti. Era ritornato il silenzio. Di là la voce s'era taciuta. Di qua tutti erano pronti con le armi puntate. Erano cessati i brontolii, le bestemmie, i passi affrettati, i rumori degli otturatori. I russi sorsero in piedi sull'orlo del bosco. Vennero sulla scarpata e tutto era ancora tranquillo. Non un colpo di fucile, non un grido. Erano stupiti di quel silenzio. Forse ci credevano già partiti. Si sedettero sulla neve e scivolarono sulla riva del fiume, ma quando i primi furono ai piedi della scarpata, spara! Gridai all'alpino che vicino a me imbracciava il mitragliatore. Una breve raffica, poi improvvisamente tutte le armi spararono. I 4 mitragliatori, la pesante, i 30 fucili, i 4 mortai di Moreschi e i 2 di Baroni. Tutte le pallottole battevano dove la scarpata si raccordava al fiume e appena i russi mettevano i piedi sulla riva, dopo la scivolata col sedere, vi rimanevano cuciti contro. Quelli che erano rimasti sull'orlo del bosco e in piedi sulla scarpata rimanevano indecisi e infine ritornavano al riparo nelle loro trincee. Le armi smisero di sparare, ma sulla riva del Don i gemiti e le implorazioni d'aiuto continuavano. I più tenaci tentavano di risalire la riva per ritornare al sicuro. Qualcuno vi riusciva. Si sentì nuovamente la voce di prima, che diceva forse di vendicare i compagni caduti sulla neve o forse dei villaggi distrutti. Riapparvero con più decisione. Ricominciammo a sparare. Non si fermarono questa volta, né ritornarono indietro. Molti ne caddero sotto la scarpata, molti. Gli altri venivano avanti gridando «Urrà! Urrà!» Ma pochi riuscivano ad avvicinarsi ai nostri reticolati. Sparavo con il moschetto a quelli che mi sembravano più impetuosi e che correvano davanti a tutti. Vi erano di quelli che fingevano di essere morti. Restavano immobili sul fiume e poi, quando non erano più osservati, sorgevano in piedi e riprendevano a correre verso di noi. Uno si servì di questa astuzia per 3 o 4 volte, finché giunto sotto la nostra trincea fu veramente colpito. Cadde con la testa e le spalle sprofondate nella neve. Una gamba in aria continuava a fare il movimento dell'arrotino, sempre più lentamente, sino a fermarsi. Doveva essere terribile passare il fiume, camminare così, sulla neve, alla luce del sole, senza il minimo riparo tra pallottole e bombe, come tempesta. Solamente i russi potevano osare questo. Ma non era possibile arrivare sino a noi. Smisero e ritornò la quiete. Sul fiume la neve era più rossa e calpestata di prima e più numerosi erano quelli rimasti sulla neve con le scarpe al sole. Ritornai nella tana. Stavo attorno alla stufa e guardavo il fuoco, tenendo il moschetto fra le ginocchia. Gli alpini parlavano dell'attacco che avevano appena finito di respingere. «Che hai lì, Sergeant Maggiù?» mi chiese Pintossi e indicò sul mio moschetto il punto dove era attaccata la baionetta ripieghevole. Vidi incastrata una pallottola di mitragliatrice. «L'hai scampata bella», mi disse Pintossi. Ricordai allora che durante l'attacco avevo sentito un colpo secco mentre inginocchiato sulla trincea osservavo e tenevo il moschetto davanti alla fronte. Gli alpini attorno al fuoco si passavano il moschetto e osservavano «L'hai scampata bella, quando sarai a casa dovrai mettere un quadretto alla Madonna. Anche 2 ne puoi mettere». «Se non è la tua ora, non parti. Già, è destino». Levai la pallottola, me la misi nel taschino della giubba dicendo «Quando sarò a casa ne farò un anello per l'amorosa». Finalmente venne il tenente Cenci. Fui contento di vederlo. E come si avvicinò gli chiesi: «Come si chiama la tua fidanzata?» Rise. Poi guardandomi e vedendomi sporco di sangue disse: «Ma Marigoni, sei ferito?» «No», dissi, «non è mio». Poi riprese: «Poteva anche essere un russo che mi chiamava stanotte e per questo chiesi a Buogo come si chiamasse la sua fidanzata. Un russo non poteva sapere il nome della ragazza di Buogo. È stato ferito una gamba da una pallottola che gli ha spezzato l'osso. Hai sigarette, Rigoni?» E me ne porse una. Giramo un po' per le trincee, ma poi entrammo nella tana della squadra di Pintossi. «Non è rimasto nessun russo di qua, Rigoni», disse Cenci. «Ma io sapevo che ce n'era ancora uno. E abbiamo preso anche due donne. Erano sui 40 anni, portavano i pantaloni e il parabellum. I conducenti, pur brontolando, le hanno caricate sulle slitte e hanno offerto loro sigarette. Andate a cucinare», borbottavano, «e non alla guerra». Al mio caposaldo è venuto il tenente Pendoli. «Cerca di riposare e di dormire ora, ne hai bisogno». Mi buttai sul tavolato, ma non ero capace di addormentarmi. Le bombe nella cacciatora mi premevano sulle reni. Le giberne piene di caricatori mi pesavano sullo stomaco. Ma nemmeno in un letto di piuma sarei riuscito a dormire. In una tasca interna della giubba, entro una borsa fatta con un pezzo di tela, tenevo le mie cose più care. Erano lettere. E sentivo quelle parole entro di me. Dove sarà ora? Forse in un'aula a leggere poesie in latino o nella sua stanza, e guardando tra vecchi libri e cose morte avrà trovato una stella alpina. Ma sono sciocco a pensare a queste cose. Perché non viene il sonno? Perché non dormo? Cenci mi guardava sorridendo. «Perché non dormi?» disse. «Come si chiama la tua fidanzata?» Per fortuna venne Turn a dirmi che era arrivato il rancio e mi recai nella tana di Moreschi a prendere la mia razione. Lì vi era una confusione insolita, coperte in disordine, sporco per terra, la paglia sparsa assieme a calze, fazzoletti, mutande. Parlavano sottovoce. Juanin non mi disse niente. Mi guardò e nei suoi occhi c'erano tutte le cose che voleva chiedermi. Turn non rideva più. E i suoi baffi neri, sempre ben curati, erano sporchi di muco. Meschini era indaffarato intorno allo zaino. Tutti gli altri facevano qualcosa. Due erano fuori nelle postazioni dei mortai. Solo Juanin non faceva nulla. Stava nella nicchia vicino alla stufa fredda. «Meschini», domandai, «perché non fai la polenta? Ho fame. È meglio farla ancora una volta». Mangiai la mia razione di rancio, ma senza alcun gusto. Arrivò qualche colpo di mortaio attorno alla nostra tana e uno sopra. Ma il nostro bunker era solido e ben fatto. Filtrò soltanto un po' di terra e si ruppero i vetri. Il rumore del cucchiaio nelle gavette era più strano dei colpi di mortaio. Prima di uscire fuori dissi: «Ricordatevi che dobbiamo restare sempre uniti». Ritornai dal tenente Cenci. E assieme ci avviamo verso una postazione. Eravamo soli. «Stasera dobbiamo ripiegare», così disse. «Sono venuto qui apposta per dirtelo. Stasera dobbiamo ripiegare. Prendi, fuma. Io ritornerò al mio caposaldo. Forse verrà qui il tenente Pendoli. Forse dovrai arrangiarti da solo. Le squadre lasceranno il caposaldo una alla volta. La prima si fermerà a metà strada con le armi pronte fra te e me e aspetterà la seconda per ripartire. Così di seguito fino all'ultimo uomo. L'appuntamento è alle cucine per le ore...» e disse un numero che non ricordo. «Ci sarà tutta la compagnia che t'aspetterà. Pensa tu a stabilire il turno per le squadre». Non risposi nulla. E solo quando fu terminata la sigaretta dissi: «Va bene». Ritornai nella mia tana a preparare lo zaino. Mi cambiai con biancheria pulita e lasciai sulla paglia quella sporca e impidocchiata. Cercai di mettermi addosso quanta più roba potevo senza averne i movimenti impacciati. mi rimasero due paia di calze e una maglia che cacciai nello zaino insieme al pacchetto di medicazione, ai viveri di riserva, a una scatola di grasso anticongelante e a una coperta da campo. Completai lo zaino con munizioni, in maggior parte bombe a mano. Aiutato da Thurn, provai a mettermelo sulla schiena, ma forse era ancora troppo pesante. Bruciai poi tutte le lettere e le cartoline che avevo, tranne un piccolo fascio. I libri li lasciai nella tana. Saranno curiosi i russi di sapere cosa c'è scritto, pensavo. Ma che male nel compiere queste cose. Dissi forte: vestitevi più che potete, ma senza restar stretti. Mettete nello zaino le cose che credete più necessarie e più munizioni che potete. Bombe a mano, tante, e del tipo più buono, le Oto o le Breda, le SRCM, buttatele sotto la neve. Nessuno pensi di andarsene per conto proprio. Dobbiamo restare uniti. Ricordatevi questo, sempre uniti. Quando dobbiamo muoverci? Mi chiedevano. Stasera, forse. E chiamai Moreschi da parte, gli dissi: non preoccuparti molto dei mortai. Prendili con te, ma non con tante munizioni. Bombe a mano e cartucce. Tutto andrà bene. Allora, sergente Maggiù, disse forte Meschini, è meglio farla polenta ancora una volta. È meglio farla ancora una volta, risposi. Uscii fuori a ripetere nelle altre tane quello che avevo detto nella mia. Gli alpini chiedevano mille cose e gli occhi domandavano più delle parole. Attorno a me era un gran punto interrogativo. Prima di sera il tenente Cenci se ne tornò al suo caposaldo. Credo non verrà nessuno, mi disse. Vecio, stai in gamba, non farti sorprendere e buona fortuna. Arrivederci. Sentivo tutta la responsabilità che mi gravava addosso. Se un rumore o una cosa qualsiasi avesse fatto notare che noi stavamo per abbandonare il caposaldo, chi sarebbe ritornato a Baita? Gli alpini mi guardavano con gli occhi stanchi e pieni di sonno, aspettando una mia parola. Cercavo di star sereno e pensavo a quello che avrei dovuto fare nel caso che fosse andata male. Quando venne la notte, mandai a chiamare tutti i capi squadra: Minelli, Moreschi, il Baffo, il Rosso della Pesante e Pintossi. Chiesi: come va? Avete tutto pronto? Novità NN, risposero. Tutto pronto. La prima a partire, ordinai, sarà la squadra di Moreschi. Oltre alle munizioni individuali, dovete portare le munizioni per le armi della squadra. Fate caricare gli uomini il più possibile. Le munizioni che rimarranno, nascondetele nella neve. Bisogna caricarsi come muli, non sappiamo quello che ci aspetterà. In caso, le lasceremo poi lungo la strada quando non ne potremo più. Appena Moreschi raggiungerà la casa di Roccata, che c'è fra noi e Cenci, aspetterà con le armi pronte che sia giunta la seconda squadra. Allora ripartirà. La seconda aspetterà la terza, e così via. Nell'attesa dovete stare con le armi pronte e in silenzio. La seconda a partire sarà quella del Baffo, poi la Pesante, poi Minelli, per ultima quella di Pintossi. Io verrò con quella di Pintossi. Feci ripetere a tutti quello che avrebbero dovuto fare e ripresi: se sentite sparare, non preoccupatevi. La squadra che è in movimento raggiunga le cucine. Lì ci sarà tutta la compagnia ad aspettare. Il capo squadra dovrà essere l'ultimo a partire. Tenetevi sempre gli uomini vicini e assicuratevi del funzionamento delle armi. Non lasciate i cucchiai nelle gavette, fanno rumore. Bisognerà fare tutto nel massimo silenzio. Tutto andrà bene. Tenetevi pronti. Vi manderò io ad avvisare quando dovrete andarvene. Andate e arrivederci. Per fortuna, la notte era buia, la più nera di tutte. La luna stava dietro le nubi ed era molto freddo. Il silenzio era pesante come la notte. Lontano, al di là delle nubi, dietro di noi, si vedevano i bagliori della battaglia e ne veniva un rumore come di ruote sull'acciottolato. Stavo fuori della trincea con un mitragliatore imbracciato e scrutavo il buio verso le postazioni dei russi. Anche da loro era silenzio. Pareva non esistessero più. Se attaccassero adesso, pensavo, e fremevo. Un alpino che avevo messo all'imbocco del camminamento che portava alla valletta venne a dirmi: «È passata la squadra di Moreschi, tutto bene?» «Vai ad avvisare il baffo», dissi. Scrutavo il buio, stringendo il mitragliatore, e tremavo. «Sergent Maggiù, è passato il baffo, tutto bene?» «Vai ad avvisare la pesante». «È passata la pesante, tutto bene?» «Parla piano, vai ad avvisare Minelli». Era silenzio. Sentii Minelli che partiva, i passi che si allontanavano nei camminamenti, qualche bestemmia sottovoce. «Sergent Maggiù, è passato anche Minelli!» Guardavo davanti il fiume nero. Non tremavo più. «Preparatevi anche voi!» Sentivo il rumore degli uomini di Pintossi che si preparavano. Parole mormorate sottovoce in un soffio. Rumore di zaini che venivano caricati in spalla. «Sergent Maggiù, possiamo andare?» «Vai, Pintossi, vai e non fare baccano!» «E tu non vieni?» «Vai, Pintossi, io verrò!» Mi si avvicinò l'alpino dalla barba secca e rada. «Non vieni?» disse. «Vai!» Ero solo. Dalla trincea sentivo i passi degli alpini che si allontanavano. Erano vuote le tane. Sulla paglia, che una volta era il tetto di un'isba, giacevano calze sporche, pacchetti vuoti di sigarette, cucchiai, lettere gualcite. Sui pali di sostegno erano inchiodate cartoline con i fiori, fidanzati, paesi di montagna e bambini. Ed erano vuote le tane, vuote, vuote di tutto. E io ero come le tane. Ero solo sulla trincea e guardavo nella notte buia. Non pensavo a nulla. Stringevo forte il mitragliatore. Premetti il grilletto. Sparai tutto un caricatore. Ne sparai un altro e piangevo mentre sparavo. Saltai nella trincea. Entrai nella tana di Pintossi a prendere lo zaino. Vi erano delle bombe a mano. Le gettai nella stufa. Levai ad altre bombe le due sicurezze e le posai piano sul fondo della trincea. Mi incamminai verso la valletta. Incominciava a nevicare. Piangevo senza sapere che piangevo e nella notte nera sentivo solo i miei passi nel camminamento buio. Nella mia tana, inchiodato ad un palo, rimaneva il presepio in rilievo che mi aveva mandato la ragazza per il giorno di Natale. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.